contadino. Bravissimo. C'è l'influenza, eh. No, già. Però è intestinale, non capisco. Ma finalmente, dopo una settimana di malesseri, malattie intestinali o meno, arriva venerdì. Oh. Senti, arriva il venerdì. Io sto bene. Sì, però ieri non ti sei lamentato di avere... Che malattia è quella del giovedì? È l'orticaria, ecco. Giovedì è l'orticaria. Ieri non hai detto che avevi l'orticaria, quindi stavi bene anche ieri. Anche il giovedì alla fine non è quel giorno. Vabbè, terribile. Aspetta, perché un conto è star bene, un altro conto è star male e non dirlo, no? Ah, tu sei... Se per una volta ho voluto farlo stoico, bravo, non lamentarmi, stoico, non vuol dire che stessi bene, Drago. Invece oggi sto davvero bene. Oggi stai bene. Perché oggi è venerdì. Sì, venerdì anche importante, capa, perché è l'antivigilia delle primarie del centro-sinistra. No, pensa, è importante perché ogni venerdì è importante a modo suo. E poi sono anche in svolgimento le liti per le primarie del centrodestra. Sì. Perché prima delle primarie ci sono le liti che precedono le primarie. Sì. Le antiprimarie, no? Tutti contro tutti, ma davvero tutti contro tutti. In questi giorni sembra che ci siano 11 candidati che si sono autocandidati e che, messi tutti insieme, non hanno un grammo del carisma del vecchio capo Silvio. Sono 11. Sono 11. Come le squadre di calcio, dico bene. Possiamo fare, esatto, possiamo fare la formazione. La squadra, dai, è così: Alfano, Santanché, Biancofiore, Mussolini, Galan, Cattaneo, Crosetto, Sgarbi, Meloni, l'avvocato Marra, che è quello dei libri con la, con la, non so, Belen, no, chi era, no, la, qualche altra testimonial, sì, improbabile, sì. E poi Samorì come punta finale. Samorì. Questa è la squadra del centro-sinistra, anzi del centro-destra, vedi che ci si confonde. Samorì, chi è? Samorì. Samorì è come Cioccorì. No, Biancorì. No, ma Samorì è quel banchiere di Modena che dice di avere tutte le carte in regola per diventare premier dopo Monti. Nessuno ancora lo conosce, ma se per caso questo Samorì vincesse le primarie e poi anche le elezioni, allora saremmo davanti a un complottone di quelli. Ma figurati se vince cappuccio. Samorì, dai. Sì, non si può mai sapere. Samorì. Ormai sembra che tutto sia pronto per la vittoria del PD, così PD, come tutto era pronto per la vittoria dei progressisti nel 94. All'epoca sbucò fuori dal cilindro Berlusconi, che non sembrava tagliato per la politica, e le cose andarono come andarono. Oggi potrebbe sbucare fuori un personaggio X, creato da Y e messo lì da Z, che nessuno conosce e che vince misteriosamente le elezioni. Potrebbe e questo succedere. Personaggio XYZ si chiama Samorì. Sì, Giampiero Samorì. E pensa che l'altra settimana due pullman di anziani in gita sono stati portati alla convention di Samorì a Chianciano Terme. Non ne sapevano niente, pensavano di andare a vedere le terme, le bellezze di Chianciano, invece si sono trovati lì a firmare i moduli per la candidatura di Samorì alle primarie, a sentire i discorsi. Ma è così che si io fa farò, per vincere. Farò. Drago, camionate di anziani ignari portati di qui e di là col pullman. Sono voti, sì, cioè, sono anziani, ma sono voti. Ma l'unico anziani. Rischio è che poi qualche anziano, quelli un po' irritabili, no? Vada in escandescenze, ci vorrebbe anche, non so, un po' di materiale per che sedarli. Cos'è quel personale gesto, anche, no? Con le cos'è siringhe, quella no? roba, Drago? Invece qui all'asilo nessun sedativo. Oggi è venerdì, non servono sedativi, non servono eccitanti, non serve niente, perché di venerdì la dopamina naturale, lo senti, circola nel nostro organismo, senti come frizza. In grandi quantità, la senti, Drago, come frizza? Ma io veramente... Drago? Sento... Ah, questo è il frizzo della... Senti, della senti che frizza. Vabbè. È bello questo. Va bene, adesso andiamo avanti così. Non è che sei in abulia come no, l'altra no, volta. Ero minuti. Preso dal trip del venerdì. Facciamo 10 minuti di... Venerdì. E ora, bambini, ricreazione! Voi mi sapreste dire dove posso imbucare la letterina per Babbo Natale? Ma Babbo Natale, ma di già, ma Alberto, sì, già. Ma è novembre, mese, Ma appunto, poi non è che c'è tanto da scherzare! Poi, sapete come vanno le cose? La posta? Sì. Ci mette tanto ad arrivare, che la letterina deve arrivare in Finlandia, perché il Babbo Natale... Sta là. È lontanissima la Finlandia, È lontana, sì. A Rovaniemi. Sì, però non è una letterina, quello è una letterona, un pacco postale. Quante cose hai chiesto? Ma bambino Alberto. Voi non preoccupatevi. Cioè, noi eravamo già d'accordo così, quindi. Ma noi chi? Io e i miei genitori, no? I miei genitori a loro volta con Babbo Natale. capisci com'è? Comunque guarda, io non saprei, forse basta mettere la busta dentro una di quelle cassette per le lettere che vedi per strada e basta. Beh, ma ci ho già un consiglio banale, però ma ci ho già provato, ma non ci entra, è troppo spessa, no? E non entra. Allora devi andare all'ufficio postale, ti pesano la lettera e ci pensano loro. Paghi. Ma voi pensate che io caschi dal pero? Allora, l'ufficio postale ci andrei anche, ma è aperto quando io sono all'asilo, no? Certo, sì. E poi, tra l'altro, lo sportello è un po' troppo alto e non mi vedono, quindi io sto lì con la lettera in mano. Vabbè, allora fai una cosa come fanno tutti i bambini. Dai la lettera a tuo papà o a tua mamma, così vanno loro all'ufficio postale, no? Pagano loro, oltretutto. Eh no, ti conviene. Come no, non mi fido io. Ma come non ti fidi? Ma quest'anno ho scritto tutti i regali in segreto, no? I miei non sanno quello che ho chiesto a Babbo Natale. E se io do la busta a loro e loro la aprono per controllare... Poi vanno loro a comprare i regali. Ma no, ma cosa di? Ma guarda che i regali te li porta Babbo Natale, mica i tuoi genitori. Allora, questo lo dite voi e non solo voi. Però io ho qualche sospetto, legittimo ce l'ho. Ma vabbè. Quindi questa è la prova del 9, no? Sì. Perché tutti gli anni la letterina la scrivevamo insieme, no? Tutti insieme. Quest'anno ho fatto anche un po' di, come dire, di controinformazione, capisci? Cioè, controinformazione sì, della letterina. Sì, roba di depistaggio. Cioè, ho sviato le indagini dei miei genitori, no? Perché loro... Senza così, senza neanche farsene accorgere, no? Buttavano lì. Bambino Alberto, cosa chiede quest'anno a Babbo Natale? E io ho sempre risposto delle cose a caso, no? Che però poi non ho scritto nella letterina per Babbo Natale, capito? Sì, tipo, sì. Non so, una trottola con lo spago, i soldatini Atlantic, no? Tutta roba di cent'anni fa, di epoche... chissà infatti, dove. E quindi temo che quest'anno Babbo Natale... Cosa? No, niente, cioè che porti quelli... Vabbè, no, niente, no, niente. No, adesso finisci la frase. Temi che quest'anno Babbo Natale... Ma no, allora, il fatto è... Allora, è difficile far arrivare la lettera a Babbo Natale senza l'aiuto di mamma e papà. No, esatto, questo l'hai detto quello anche un po' tu. Il discorso. Bastava fare una busta più piccola, così la imbucavi. Infatti io pensavo di chiedere aiuto a voi due, no? Che siete gli unici adulti che io conosco che non mi tradirebbero mai. Ti ringraziamo per la fiducia mal riposta, però anche noi abbiamo dei grandi problemi ad andare all'ufficio postale, sì, perché sì, l'orario dell'ufficio postale è coincidente anche per noi con l'orario dell'asilo, perché siamo qua. Ma allora è così. Come faccio adesso? Senti, prova con l'email, ce l'hai l'email di Babbo Natale? Magari. No. Prova con WhatsApp. Con? Vabbè, niente. Però no, basta, perché mi dite sempre niente, niente? Non sono mica un fesso, E poi quando sarai grande capirai. Però dicevo, capirai. Come quella canzone là. Quando sarai grande, saprai. Sì, è così. Tipo così, no? Sì, vabbè. Bella consolazione, però i regali. Ma cioè, tu, i regali. Tu vuoi davvero quei regali lì che dicevi che la hai scritto trottola, lì? No, vuoi davvero... E allora dai la letterona... che è in mano a mamma e papà, è l'unica. Ma allora non c'è. Ma niente, tu non pensarci su tanto, non, è che devi ragionarci, spegni quel poco di cervello che hai, dai la lettera a mamma e papà. Sì, poi loro la danno a Babbo Natale in qualche maniera. Se no, i regali quest'anno mi sa che non li vedi. Ma non è giusto. Ma quando sarai grande? Saprai perché. Saprai. Poi c'è la solo di sax. Quando sarai grande... Lascia che almeno canta, non la sa, vabbè. Se canta gli passa. Vai con la sala grande e poi... E adesso? Adesso che aspetto i regali? Saprai. E adesso spogliati come sai fare tu e non illuderti, io non ci casco più. Questo qui è forte, così è pieno di pathos. Poi dopo evitate i minori, non posso cantare. Mancano 28 giorni alla fine del mondo. Vabbè, allora il venerdì il suo battito si annuncia inconfondibile. Noi dobbiamo salutare tutti quelli che hanno collaborato a questa settimana di Chiedo Asilo, cioè da contratto, ogni tanto bisogna farlo. Allora, Carmelo Lauricella, Laura Faggin, Alberto Caserini, Salvatore Iorio e anche gente che non c'entra niente come Guido Bertolotti. Mettiamo dentro tutti. Non so, che non c'entra niente, ce n'è una lista lunghissima. Allora cominciamo. Però so mia mamma. Sì, il lattaio. Tua mamma. Sì. Il lattaio chi è? Anche i parrucchieri, quei due là. Quali? Quelli che ci tagliano. Quelli che sembrano gay, ma non sono lo so, gay. Loro due.